A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. È finito in manette con l'accusa di tentato omicidio per aver procurato lesioni gravissime a un disabile di Caltagirone, un giovane di 23 anni che al culmine di una lite avrebbe colpito con calci e pugni la sua vittima. È indagato per omicidio volontario Davide Righi, l'uomo che durante una lite in via Morgagni a Milano ha colpito un tassista di 68 anni con una confezione di bottiglie d'acqua, causando la caduta che ha portato poi al decesso di Alfredo Famoso. Massacrato di botte per una frenata troppo brusca, vittima del pestaggio Alessandro, 38enne autista dello 012, la linea ATAC che attraversa il quartiere di Acilia nell'entroterra del 13° municipio. Accoltella il nipote al termine di una lite scaturita per decidere il programma TV da guardare. È successo nella giornata di domenica a Barletta, a scontrarsi zio e nipote rispettivamente di 43 e 19 anni. Sappiamo già stanno tre quattro ferite, non morto, di morto. Prima la lite e poi la coltellata è un ragazzo romano di 33 anni, Carlo Macro, impiegato in un hotel del centro. È stato ucciso domenica notte da un clochard indiano proprio sotto al gianicolo. La cronaca a volte fa paura. La cronaca a volte racconta di semplici bottiglie d'acqua trasformate in armi capaci di uccidere. I fatti a volte dicono che si può morire anche per uno sguardo un po' più intenso del solito, per la musica troppo alta, per una sigaretta mancata. A volte si uccide perché uno è di una città e l'altro di quella confinante e basta una parola sbagliata per infiammare tutto. In gergo giudiziario si chiamano futili motivi ed è in questa formula del codice penale il volto nascosto e violento delle nostre città, come il tappo di una rabbia capace di esplodere all'improvviso con conseguenze che nessuno può davvero prevedere. Non potevano certo immaginare i due fratelli Macro a Roma che quella sosta al Gianicolo dopo la serata per locali si concludesse con un cacciavite piantato nel torace del più giovane da un indiano disturbato dal suono della musica dello stereo. E cosa ci può essere di più aleatorio e indefinibile di uno sguardo e quindi in un certo senso pure futile? Però bastano gli occhi appoggiati per qualche secondo in più sul profilo di una ragazza a Parma e lo scambio di qualche parola perché un quindicenne fosse pestato a sangue da un branco. O a Cantù, dove la provenienza da due città vicine ma diverse come Milano e Como diventa una sfida da risolvere in un duello. È soprattutto sulle strade, al volante, nei parcheggi o nelle frenesie del traffico che la violenza per futili motivi esplode però più di frequente e nel modo più feroce. La prima vittima, il primo delitto per un'aggressione da strada è a Milano quest'anno. Il tassista Alfredo Famoso è stato ucciso con una confezione d'acqua da un passante, dopo una frenata forse all'ultimo momento mentre il pedone attraversava insieme alla moglie incinta. Nel 2013 i morti sono stati 5 per storie di parcheggi contesi o precedenze negate, 198 i feriti di cui 49 molto gravi. E davanti a questi numeri la cronaca fa allora ancora più paura, perché da un nulla, da un futile motivo appunto, può partire questa pericolosa aggressività che l'Associazione degli Amici della Polizia Stradale registra col suo osservatorio e il suo presidente Giancarlo Biserni avverte aumenta la sfida al volante. È la tipica aggressione di noi italiani quando siamo al volante, alimentata dalla benzina probabilmente di una situazione generale difficile. Ci ricordi un po' dietro quei numeri che storie ci sono? Ci sono storie spesso anche di vicinato, in condizioni nelle quali si ritiene che un parcheggio pubblico sia diventato di esclusivo servizio privato, parcheggi nei supermercati, un sorpasso fatto in maniera discutibile o rischiosa, magari da un veicolo che ha una cilindrata inferiore, quasi fosse una lesa maestà. Poi le mancate precedenze sono, direi, all'ordine del giorno. I vostri dati dicono che solo nel 2013 ci sono stati 5 morti legati alle aggressioni avvenute sulla strada e 198 feriti, di cui 49 gravi. In due casi parcheggi, due mancate precedenze, mi pare una questione legata a un sorpasso a manovre azzardate di un episodio che è avvenuto a Roma, ma il nostro osservatorio ovviamente raccoglie solo gli episodi veramente importanti, non certo le discussioni per strada, perché altrimenti servirebbe un'enciclopedia. Sarebbe un elenco troppo lungo. Ecco, quello che ci stava raccontando di questa discussione che poi ha portato addirittura alla morte di una persona legata ad un parcheggio, qual era la storia? Ma la storia in questo caso è proprio fra due persone che si conoscevano per un parcheggio, non ovviamente nel condominio ma all'esterno, è nata una discussione e di qui scatta un meccanismo vendicativo molto forte. Addirittura ci sono casi, come nel caso di Roma, in cui all'aggressione stradale vera e propria, quindi con litigio verbale o con qualche spintone, segue poi l'entrata in scena, come è avvenuta a Roma, di un genitore che va a cercare l'automobilista che aveva discusso col figlio e regola la questione a rivolverate. Colpisce il fatto anche che in 59 casi del 2013, ossia nel 41% di questi episodi gravi, sono state usate armi proprie o improprie. Sono gli strumenti, ad esempio, della macchina che possono essere usati e trasformati in vere e proprie armi? Il cacciavite utilizzato dall'indiano che ha ucciso il ragazzo non è certo un'arma propria. Parla dell'aggressione di Roma, sì, per la musica troppo alta. Per la musica troppo alta. Ci sono casi ripetuti dell'utilizzo dell'ombrello, dell'utilizzo classico del click, ma ormai desueto perché è difficile da raggiungere. Ci sono persone che sono appassionatissime di baseball perché girano in macchina già con le mazze da baseball e poi si scopre che non sanno nemmeno come sia fatto un diamante, intendendo per questo il campo. Si utilizzano gli strumenti che sono a portata di mano, i più facili, e spesso si usa la stessa vettura come arma impropria, cioè tu ti metti davanti nella mia direzione, io anziché fermarmi eccetera ti sfido, accelero, ti investo e ti stendo a terra. Mentre l'utilizzo delle armi proprie in 32 casi, beh, lì si usa il coltello, si usa la pistola. Un'aggressività che è diffusa un po' in tutta Italia, ma che è presente anche in regioni che non verrebbero subito in mente, come la Toscana. Sì, diciamo gli episodi che noi abbiamo segnalato vedono un po' questa casistica diffusa. Le mortalità, devo rilevare, sono avvenute più nel centro-sud. Dei 5 episodi, 4 sono avvenuti nel centro-sud, ma questo può essere un episodio, un'indicazione. Ci ricorda le regioni, se le ha? Ed è tutto occasionale. Sicuramente Campania, Puglia e poi il centro Lazio. L'ultima aggressione gravissima è avvenuta a Milano, no? Come lei sa. Quindi quella al tassista che è stato aggredito con delle bottigliate da un pedone, da un passante, per una storia di una frenata forse fatta all'ultimo momento, mentre appunto il passante camminava con la compagna incinta sulle strisce pedonali. In questo caso con l'utilizzo di un'arma impropria, cioè una scatola di acqua minerale usata in maniera violenta. Ecco Presidente, succedono soprattutto di giorno, quindi non di sera come ci si aspetterebbe, forse perché c'è più traffico? In questi 143 episodi ben 130 avvenuti di giorno, 13 di notte. E di giorno sì, sicuramente, certo anche gli elementi del traffico sono notevoli, ma la notte ha alcuni vantaggi positivi. Non vedi la sfida, come devo dire, visiva dell'altra persona. Di notte probabilmente le tensioni diurne sono molto meno frequenti, ci sono meno sfide per i parcheggi. L'elemento cruciale che fa da filo conduttore di tutte le aggressioni per futili motivi, anche quando portano a esiti drammatici come quello di una morte, è sempre il concetto della sfida. La sfida che c'è tra due persone, la sfida che porta ad esempio anche dei ragazzi, anche molto giovani, a picchiarsi, a volte anche in modo drammatico per uno sguardo, così. Questo viene, in un certo senso, si ha la sensazione che viene ulteriormente aumentato intorno ad una macchina. Sì, glielo confermo, la sfida abbraccia, ahimè, tutte le età. Le do un altro dato: in alcuni degli episodi più gravi l'aggressore spesso è stato un ultra sessantenne. Cioè anche anziani? Ultra 65enne addirittura, ultra settantenni, che hanno colpito in maniera molto violenta, anche alcuni casi di mortalità. Spesso diventiamo impazienti con chi è lento, con l'anziano che ci precede, con il pedone che tarda, o addirittura con chi fa un sorpasso che giudichiamo rischioso, a volte spesso lo è, intendiamoci, oppure chi ci manca la precedenza. Ecco, il limite della tolleranza sulla strada è il più basso in assoluto, a mio modo di vedere. Quanto spesso degenerano in aggressioni anche fisiche quelle partite, ad esempio, da parolacce dette tra un finestrino e l'altro o gesti sconci fatti allo specchietto? Noi non abbiamo questo tipo di casistica, non lo possiamo avere perché noi raccogliamo solo quelli molto gravi, però ecco, gravi e refertati, ma credo proprio poche, perché se si dovesse avere una percentuale, non dico tanto, solo del 30% degli scambi verbali violenti, credo che la nostra casistica raccoglierebbe ben altri numeri. Per fortuna i dati di aggressione fisica accertati, refertati, sui quali sono intervenuti gli uomini di polizia, ripeto, mi pare 198, sono 143 in un anno, sono rari, ma quelli di aggressione verbale, che si arriva a sfiorarsi anche fisicamente, sono certamente innumerevoli, tantissimi. Sembra un'espressione innocua, quasi banale, ma dietro quell'espressione dei futili motivi, che in gergo giudiziario è un aggravante, si racchiude spesso un livello di tensione, di rabbia, di sfida, di narcisismo pure, dicono gli psicologi, che degenera in violenza. E i futili motivi per la giurisprudenza devono essere così futili che, ad esempio, come sentiremo nella seconda parte di A ciascuno il suo, non vengono riconosciuti invece in caso di gelosia, se l'aggressione nasce da una gelosia. A ciascuno il suo. You say, Dallas die. No, what do you mean? No, niente, è una cosa mia, siccome mia famiglia, tutti i day, tutti i giorni, night and day, guardano quella vostra television Dallas, click, sempre Dallas, Dallas. Click Dallas. Dallas, you don't like Dallas? Yes, no, non è che... Don't touch me, Cheryl, Pietro, honey. Pietro likes Dallas. È che I don't like, è che mi rompe, ecco. Oh. Ecco. Perché voi ci dovete rompere i coglioni con sto Dallas? Hey, ecco. Coglione, I know what that means, don't you bad word me, I'm no coglione. Ah, coglione lo capisce, le parolacce le capisce. Tu hai detto mi coglioni. Coglione, sì, ma your husband, signora, suo marito attacca briga. No. E veri attacchi a briga. And you're a dirty bastard. A volte basta molto meno per far precipitare tutto. Le provocazioni di Alberto Sordi con un americano di Dallas in questa vecchia pellicola nella vita reale possono trasformarsi in pretesti di scontro concreto, forte e a volte pure fatale, e sulla strada succede ancora di più, come abbiamo sentito nella prima parte di A ciascuno il suo, che le aggressioni per futili motivi diventino pure omicidi. Cinque le vittime del 2013, e già in questo inizio d'anno si conta la morte di un tassista milanese ucciso dal colpo di una confezione d'acqua scagliata da un passante per una frenata brusca. Per colpa della musica alta, invece, è morto un trentenne a Roma. Per via di qualche sguardo di troppo è stato picchiato un quindicenne a Parma. Per non parlare degli accoltellamenti, per vendicare insulti, difendere il presunto onore o rispondere a una provocazione. Può capitare così, anche se sembra assurdo nel 2014, nell'epoca dei viaggi in tutto il mondo, può capitare che si colpisca con un coltello chi si ha di fronte solo perché è originario di una città distante una quarantina di chilometri, come è successo a Cantù tra un milanese e un comasco. Storie che sembrano di altri tempi, storie di narcisismi e di sfide, spiegano gli esperti, storie che invece si consumano nelle nostre strade e affollano i fascicoli dei nostri tribunali. Anche vista da qui, dal numero di volte che l'aggravante dei futili motivi è contestata, la violenza partita dal nulla è in aumento, come conferma Fabio Roia, giudice del Tribunale di Milano, anche se, sentite bene, se l'aggressione nasce per questioni di gelosia non esiste aggravante. Nessun aggravante dei futili motivi, insomma, se dietro quelle botte c'è la gelosia. Questo stabilisce una sentenza, anche se la violenza più ricorrente, conferma il giudice Roia, si consuma sulle strade. Ma direi che nell'esperienza sono in aumento i futili motivi contestati, per esempio, per fatti inerenti alla circolazione stradale. Il futile motivo, innanzitutto, secondo la giurisprudenza, è come dire l'indice di una sorta di istinto criminale più spiccato, di un elevato grado di pericolosità di chi compie questo gesto. Serve per verificare la pericolosità dell'agente in relazione alla sproporzione del gesto. Quindi, per esempio, se per un motivo di viabilità una persona arriva ad uccidere un altro, evidentemente ci può essere la futilità del motivo. Sono diversi però gli esempi che abbiamo di fronte o che comunque la giurisprudenza codifica per futilità del motivo. Ad esempio ho trovato una sentenza molto interessante del 2009 con cui, proprio perché è stato ritenuto che il gesto che ha compiuto la persona fosse uno sfogo di un impulso criminale, era stato condannato una persona perché in relazione ad una banale lite condominiale aveva esploso dei colpi di pistola che aveva ucciso un altro, e si tratta di situazioni ovviamente drammatiche. In termini giudiziari questo è un aggravante, perché appunto vuol dire che si è pronti a compiere reati anche gravi fino ad ammazzare ad una persona senza avere neanche, diciamo, un movente adeguato che possa spiegare un certo tipo di comportamento. Quindi si tratta soprattutto di gesti inconsulti. Esattamente. Si tratta in sostanza di un pretesto per dare sfogo ad un impulso criminale che è insito nella persona, e quindi si deve guardare soprattutto la sproporzione esistente fra azione e contesto in cui la stessa si è verificata. Molte volte viene contestata l'aggravante dei futili motivi per i maltrattamenti in famiglia. In questo caso la giurisprudenza, quando per esempio c'è un fattore di gelosia che scatena l'aggressore, che per esempio colpisce la propria compagna in maniera abituale, appunto maltrattamenti contro relazioni o conviventi, ecco, si ritiene che invece la gelosia, se è sincera ovviamente, se non è pretestuosa, non sia l'espressione di un impulso criminale così accentuato, ma giustifichi in qualche modo, sotto il profilo dell'esclusione dell'aggravante, la condotta di maltrattamento, per cui per esempio la giurisprudenza della Corte di Cassazione tende ad escludere l'aggravante dei futili motivi quando il gesto sia stato compiuto per gelosia o per un motivo che non sia, ripeto, lo sfogo di un impulso criminale. Ecco, quindi la gelosia non è un futile motivo per la legge italiana? Più che per la legge direi per la giurisprudenza, quindi per l'elaborazione che fanno i giudici non è un futile motivo. Non è un po' preoccupante questo? Cioè non sembra quasi da un punto di vista giudiziario una specie di attenuante? Ovviamente la situazione va vista caso per caso. Ovviamente. È chiaro, se ovviamente la gelosia è, come dire, una forma sincera, è incompatibile con il futile motivo. Se invece la gelosia è un pretesto per scatenare una forma di possesso della persona, evidentemente può essere un futile motivo. Ecco, dottor Roia, veniamo però al problema poi delle pene, che è un altro aspetto non secondario di questo tipo di reati. L'aggravante del futile motivo si traduce in una condanna, ad esempio, per omicidio, chiaramente generalizzando, perché ogni volta bisognerebbe vedere la vicenda specifica, concretamente in quanti anni? Per omicidio volontario ci può essere anche l'ergastolo, laddove venga ritenuto l'esistenza di un motivo futile, o poi il codice allega e assimila il futile motivo anche al motivo abietto, in questo caso può anche essere dato l'ergastolo proprio per la gravità, e proprio perché serve al giudice la valutazione della sussistenza o meno di questo aggravante per tentare di reggere un po' l'animo umano, cioè per capire perché quel gesto è stato compiuto. Per esempio, ecco una cosa molto interessante, la giurisprudenza sempre della Corte di Cassazione tende ad escludere l'esistenza del futile motivo quando ci sia stata una provocazione da parte di un altro soggetto, perché in questo caso ovviamente la reazione che c'è stata alla provocazione, anche se fosse un gesto estremo, in realtà non è, tentando proprio di leggere l'animo umano, espressione di quell'istinto criminale pericoloso a cui facevamo prima e a cui va ancorato l'esistenza e la contestazione dei motivi futili. La cronaca ci racconta dal ragazzo ammazzato a Roma perché per la musica troppo alta, a quelli picchiati per una sigaretta, a altri ancora, non so, al tassista milanese ucciso per una frenata brusca. Ecco, la cronaca ci racconta di tanti gravi episodi, come se quasi non si avesse consapevolezza del tipo di pene anche a cui si va incontro. Questo secondo me è un problema proprio di degenerazione del comportamento che noi abbiamo nella società, nel senso che si fa ricorso molte volte a gesti estremi, a gesti violenti, anche in presenza di situazioni tutto sommato minimali, come sono quelle che possono essere dei motivi di viabilità, delle liti per motivi di viabilità oppure situazioni assimilabili. In questo caso evidentemente è un problema proprio di degenerazione del comportamento e di assenza di consapevolezza di quello che si fa. È come se avessimo una specie di istinto represso di violenza alcuni di noi ovviamente, che viene liberato quando si crea soltanto, più che un'occasione, un pretesto. Che tipi di vicende sono di competenza solo dei giudici di pace e non del tribunale ordinario? Direi che la competenza, quindi la giurisdizione del giudice di pace, è considerata una giurisdizione minore, anche se poi in realtà interessa la vita quotidiana di tutti noi. Possono essere per esempio delle percosse, possono essere per esempio delle ingiurie, delle minacce, dei fatti ritenuti minimali che però possono essere, ripeto, posti in essere per motivi futili che in qualche modo evidenziano la predisposizione, la ricerca da parte di quel soggetto a creare quel tipo di problema all'altro. E quindi non è una fisiologia, seppure nell'ambito della patologia del comportamento criminoso, normale, ma è un qualcosa che esprime una particolare malvagità dell'animo. Ma lei ha notato per caso un aumento di fatti legati ai futili motivi, di reati legati ai futili motivi? Sì, c'è un aumento, anche se non abbiamo un dato di rilevazione statistica, come dato di tendenza direi di sì, perché è aumentata la conflittualità e perché è aumentata soprattutto il ricorso alla violenza anche per situazioni minimali, come possono essere, abbiamo citato più volte, le liti derivanti da problemi di circolazione stradale o la tendenza ad aggredire. Per esempio, ecco, un contesto fra virgolette molto pericoloso è proprio la lite condominiale. Abbiamo visto prima un caso dove una persona non ha esitato ad uccidere un condomino per una semplice e banale questione inerente alla gestione di spazi comuni. Quindi ovviamente questo è molto, ma molto riprovevole. E a voi che ci ascoltate mentre siete in auto, spaventa questa facilità di aggressioni in auto? E invece vi chiedo anche, ma lo chiedo soprattutto alle donne, a voi la gelosia sembra quasi un attenuante o comunque una ragione valida per negare l'aggravante dei futili motivi? Se vi va, scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce, vi ripeto Storiacce, o sul blog Storiacce. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto.